Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 è il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp e veniamo subito ai temi che affronteremo oggi. Non torneremo oggi sulla vicenda di Fiat Chrysler, per quanto sia al centro dell'attenzione, ne abbiamo parlato parecchio la settimana scorsa, ne abbiamo parlato nel corso di questa settimana, magari su questa vicenda ci torneremo domani. Fatto sta che, giusto per darvi un'idea di quello che è successo nell'arco di questa giornata, è successo che, secondo alcune indiscrezioni diffuse dall'agenzia di stampa Bloomberg, l'azienda si preparerebbe a scorporare, o quantomeno starebbe pensando e starebbe lavorando a progetti di scorporo di una serie di rami di azienda, in particolare il settore, per così dire, delle auto di lusso, e quindi Maserati ed Alfa Romeo, che insieme questi due marchi varrebbero intorno, secondo gli analisti consultati dalla stessa Bloomberg, varrebbero 7 miliardi di dollari, e anche la parte della componentistica e dell'automazione industriale, quindi Comau, Texid e Magneti Marelli, complessivamente per un valore di 5 miliardi di euro. Secondo l'idea che c'è sotto questa ipotesi di scorporo, l'idea sarebbe che Fiat Chrysler potrebbe concentrarsi maggiormente sul mercato dell'auto di massa e quindi non sul lusso, trovando a questo punto più facilmente un partner proprio per questo ambito, per il settore delle auto di massa. Da questo punto di vista non ci sarebbe lo scorporo di Jeep. Comunque il risultato è che nel giro di due settimane il titolo di Fiat Chrysler, che valeva l'11 agosto scorso, giusto per darvi un'idea, valeva meno di 10 euro, adesso ne vale più di 12. Il rialzo in questo momento è del 5,6%, vale 12,12 euro per azione sul listino milanese ed è ovviamente il titolo migliore a Milano in una giornata tutto sommato piuttosto debole, meno 0,6% per il FTSE MIB, mezzo punto percentuale di calo per il FTSE All Share, e deboli sono anche le altre piazze finanziarie europee, con Parigi che cede lo 0,3%, Francoforte altrettanto, Londra in calo dello 0,02%, e l'America negativa anche qua, Standard & Poor's 500 che cede lo 0,25% e Dow Jones altrettanto. Questo per quanto riguarda Fiat e i mercati. Su Fiat forse possiamo anche aggiungere che, stando ad altre indiscrezioni, questa volta pubblicate da un'altra testata, nella fattispecie il New York Times, riferisce che in realtà contatti con aziende cinesi sarebbero in corso da molto tempo. Non si tratta necessariamente di Great Wall, quella della quale abbiamo parlato nei giorni scorsi, però ci sarebbero dei contatti per cedere, se non Jeep, almeno una parte di Jeep. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Sullo sfondo di tutto questo c'è naturalmente il piano industriale quinquennale che Sergio Marchionne sta preparando prima della sua uscita di scena, che avverrà nel 2019. Ricorda, tra le altre cose, Bloomberg, e questo è da segnalare, che Sergio Marchionne ha preso in mano Fiat nel 2014 e gli asset di Fiat valevano complessivamente 6 miliardi di dollari e adesso valgono 54 miliardi di dollari. Ha di fatto decuplicato il valore dell'azienda in questi 13 anni di guida. Comunque, come si diceva, questo era solo un accenno, perché sicuramente la notizia è giornata, ma su Fiat torneremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Per quanto riguarda gli altri temi di oggi, c'è questo fronte interessante che riguarda due aziende, una della grande distribuzione e una è un colosso della tecnologia, perché Google e Walmart hanno firmato un accordo per la distribuzione dei prodotti di Walmart appunto tramite la piattaforma di Google e addirittura tramite un assistente vocale. La mossa sembra chiaramente un segnale ad Amazon. Amazon che, come sappiamo, nelle settimane scorse ha lanciato un'offerta su un gruppo di vendite al dettaglio, si tratta nella fattispecie di Whole Foods, e quindi appare, almeno ai nostri occhi al momento, un tentativo di contrastare la forza di Amazon nel settore della vendita online. Ma approfondiremo questo e ce lo faremo dire da qualcuno che ne capisce qualcosa in più di noi. Dei mercati abbiamo detto, e sarà un altro dei temi di approfondimento, e poi ci sono le questioni europee che tornano prepotentemente in gioco, a partire soprattutto da quella che è la politica monetaria della Banca Centrale Europea, con Mario Draghi che ha chiarito in un suo intervento questa mattina che il quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea, è stato dimostrato empiricamente che funziona. Dall'altra parte ci sono le parole di Weidmann, del presidente della Bundesbank, il quale dice che ci si sta avvicinando a quello che è il target di inflazione della Banca Centrale Europea e bisogna pensare ad un'uscita dal quantitative easing. E nel frattempo arriva anche un'indicazione interessante, soprattutto in vista delle elezioni tedesche che ci saranno quest'anno, da parte del ministro tedesco Schäuble, il quale dice che l'ISM, il meccanismo di salvataggio degli stati europei, potrebbe essere utilizzato anche in chiave di crescita per i paesi del sud Europa o per i paesi in difficoltà economica. È sembrata un'apertura molto forte, poi ovviamente sono arrivate le classiche precisazioni proprio perché siamo in campagna elettorale in Germania, però è uno spunto interessante e anche questo lo andremo ad approfondire. Infine, una storia che arriva dalla Gran Bretagna è il caso di Prevident, che è un'azienda che concede mutui subprime, ossia mutui alle persone in difficoltà. Abbiamo imparato a conoscere i mutui subprime perché hanno generato la crisi dalla quale stiamo faticosamente uscendo in questo periodo, hanno contribuito a generare questa crisi che ovviamente non era generata solamente dalla finanza dei mutui subprime. Che è successo a questa azienda? È successo che ieri ha lasciato sul terreno il 70% in borsa. Pesa un'inchiesta aperta su questa azienda, pesa anche un modello di business che è stato cambiato da una riscossione porta a porta con 4.500 agenti sul territorio, si è deciso di passare a una riscossione di questi, come dire, dei debiti di queste persone che l'avevano contratto con l'azienda, una riscossione fatta in parte in digitale e con 2.500 persone. È un po', se vogliamo, una virata di tutta questa narrativa secondo la quale l'automazione toglie lavoro e i robot possono fare il lavoro meglio di noi. Evidentemente in alcuni casi questo non funziona. Comunque andremo a raccontare questa storia e vedremo poi se questa interpretazione che alcuni giornali un po' maliziosamente, anche quelli britannici, hanno dato è vera oppure no. Le notizie in breve di oggi. L'oro in rialzo dello 0,2% a $1,288 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, abbiamo una lieve risalita, il Brent guadagna mezzo punto percentuale a $52,15 al barile. Per quanto riguarda il WTI, quello quotato a New York, più 0,38% a $48 al barile. Sono stati diffusi oggi i dati delle scorte di petrolio negli Stati Uniti e sono calate più di quanto non si attendessero gli analisti. Per quanto riguarda il presidente americano Donald Trump, a Phoenix ha minacciato di portare il governo federale allo shutdown, ossia alla chiusura delle attività non essenziali senza i fondi necessari, se la sua proposta di costruire il muro con il Messico non sarà finanziata. Trump ha anche accusato i democratici ostruzionisti di mettere la sicurezza di tutti gli americani a rischio, opponendosi alla proposta. Gli americani hanno votato per il controllo dell'immigrazione, dice Trump. Trump, che ha anche bloccato gli aiuti all'Egitto, 96 milioni di dollari, e congelato 195 milioni di dollari di fondi militari per la carenza di progressi nei diritti umani e per le sue buone relazioni con la Corea del Nord. Una decisione condannata dall'Egitto, storico alleato degli Stati Uniti. Il Ministero degli Esteri, in un comunicato, si dice rammaricato della misura, che avrà effetti negativi nelle relazioni strategiche che legano i due paesi da decenni. Di Google e Walmart abbiamo accennato poco fa, l'hanno annunciata un'alleanza che renderà disponibili i prodotti del colosso americano della grande distribuzione sul centro commerciale online del gigante internet a partire da fine settembre. Lavoreremo con Google per offrire centinaia di migliaia di articoli per lo shopping vocale tramite Google Assistant. La semplifico, di fatto gli utenti americani potranno dire al computer: ordinami da Walmart, parlando così come vi sto parlando io, ordinami da Walmart 2 litri di latte e 4 pacchetti di biscotti, e gli arriveranno a casa. Così la facciamo più semplice. Anche di Fiat Chrysler abbiamo detto, sono stati scambiati 30 milioni di pezzi fino ad ora, e vedremo come finirà questa seduta di borsa. E a proposito dei rapporti con la Cina e con gli investimenti cinesi, la Commissione europea sta valutando tutte le opzioni che le sembrano pertinenti in materia di controllo degli investimenti stranieri nelle società europee. Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo comunitario. Juncker farà un primo annuncio in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione verso metà settembre, mentre le proposte concrete arriveranno più tardi in autunno. Alla luce di questo, dice il portavoce, accogliamo con favore tutti i contributi da parte degli Stati membri, come quello congiunto d'Italia, Francia e Germania. A proposito di Europa e a proposito della Brexit, per la prima volta il governo britannico ha riconosciuto che la Gran Bretagna rischierà di rimanere sotto il controllo diretto della Corte di Giustizia Europea per diversi anni, per temi come l'immigrazione. Che, se ci pensate, è un paradosso, perché un pezzo importante del voto per la Brexit, in favore della Brexit, è stato proprio per il controllo dell'immigrazione e per non avere più, come dire, le scarse limitazioni dello stare all'interno dell'Unione Europea. Da questo punto di vista arriva la notizia che la giurisdizione potrebbe rimanere in capo alla Corte di Giustizia Europea per tutta una serie di decisioni. Immaginatevi la pioggia di ricorsi. Tra l'altro l'Home Office, il Ministero dell'Interno britannico, ha inviato per errore 100 lettere ad altrettanti cittadini europei residenti in Gran Bretagna, paventando il rischio di arresto o espulsione. Questo stando a Sky News, nelle missive era contemplata appunto la minaccia di espulsione, però appunto andate per errore. We'll be right back. WPP, il più grande gruppo pubblicitario al mondo, ha fatto sapere che il suo fatturato per l'anno in corso potrebbe essere inferiore alle previsioni del mercato a causa dell'incertezza economica e dell'impatto del digitale, che stanno comprimendo i budget pubblicitari. Le azioni del colosso britannico hanno registrato il maggior calo da quasi 20 anni, meno 11,7%. Il fronte della BCE, beh, ci arriveremo più tardi, dice Draghi, che il mondo è più resiliente, ma ci sono nuove sfide. Le azioni politiche decise negli ultimi 10 anni nella politica monetaria e nella regolazione e supervisione hanno reso il mondo più resiliente, ma dovremmo continuare a prepararci per nuove sfide. Se il mondo cambia, la politica monetaria va rivista, dice ancora Draghi, e ancora ampie ricerche confermano il successo del quantitative easing. Con in questo gioco delle parti Weidmann che dice che non c'è bisogno di prolungarlo, e poi le parole del piano di Schäuble: più peso all'ISM può aiutare il sud dell'Europa non solo in caso di fallimento ma anche per migliorare le congiunture in periodi negativi. Oh, infine, visto che ce lo chiede un ascoltatore, ma ha anche ragione che non l'abbiamo dato, non l'abbiamo dato ieri, lo diamo oggi, l'andamento dello spread che continua a salire. Effettivamente lo spread tra BTP e Bund, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani a 10 anni e quelli tedeschi a 10 anni, a metà giornata il differenziale fra i due titoli ha superato il tetto ai 170 punti base, ha raggiunto 174 punti, il rendimento del decennale italiano è al 2,15%. Apriamo dunque questa puntata di Focus Economia con il primo tema di oggi, che è un tema che ha a che fare con la tecnologia e con la grande distribuzione. Dunque, Google e Walmart hanno annunciato martedì un'alleanza, come si diceva, che renderà disponibili i prodotti di Walmart sul centro commerciale online di Google. Facciamola molto semplice: shopping vocale tramite Google Assistant. Google, mandami la spesa a casa e la spesa arriva da Walmart. Da ricordare, giusto per dare la misura di quello che è stato l'impatto degli acquisti online sulla grande distribuzione. 4.000 negozi e grandi magazzini americani hanno chiuso tra fine 2016 e inizio 2017. E dentro fine anno si stima che si possa arrivare fino a 9.000 saracinesche abbassate definitivamente. Grosse catene come JCPenney, Radio Shack hanno chiuso 138, rispettivamente 138 e 550 punti vendita. Da ottobre si sono persi nel settore retail circa 100.000 posti di lavoro. E in 15 anni il comparto ha perso il 25% dei dipendenti. Fa un po' sorridere, consentitemi di dirlo, il fatto che qua si facciano ancora delle battaglie contro i grandi centri commerciali e contro le chiusure domenicali, quando la botta arriverà da un'altra parte. Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista dell'Università Bocconi di Milano, co-conduttore dei Conti della Belva, è inutile fare finta di darsi del lei. Carlo Alberto, ciao, buonasera. Ciao Simone, stavo giusto comprando uno shampoo con Amazon Echo e poi mi hai chiamato. Eccoci qua. Allora, ascolta, questa mossa di Google e Walmart è chiaramente o non lo è una mossa in funzione anti-Amazon, per quanto, come dire, sia difficile contrastare Bezos e la sua potenza commerciale? Sai, anzi Amazon sono un po' in ritardo, diciamo una decina d'anni, è almeno una mossa per provare a inseguirli da buoni numeri due, questo è quanto dicono gli analisti americani, però devo correggerti, non è proprio shopping online o e-commerce, questo è reordering online, cioè l'uso dei voice activated devices, cioè sostanzialmente dello shopping ordinato via voce, come facciamo con Siri, insomma. Serve a riordinare il latte, appunto lo shampoo, io ne ordino tantissimo, come sai, lo yogurt, e le tecnologie di Google riescono a interpretare, senza bisogno di chiedertelo, la marca preferita di yogurt e di latte e rispedirtela. No, visto che siamo in radio e non ti vedono e non tutti ti conoscono fisicamente, forse lo diciamo agli ascoltatori che non hai nemmeno un capello e quindi la cosa dello shampoo era chiaramente una battuta. Sì. Sì, e comunque ti sto dicendo che è una scelta tecnica quella di Walmart di essere dietro a un segmento che è il più dinamico negli Stati Uniti, che è appunto l'e-commerce vocale, cosa che da noi manco stiamo neanche prefigurandolo. E lì, siccome gli americani sono un popolo semplice, in realtà hanno abitudini abbastanza prevedibili e statiche, in realtà il reordering, cioè il riempimi l'armadio o la dispensa, questo è a quanto serve, e ovviamente Walmart sta cercando di ricombinare tramite Google, tramite Uber che fa le consegne, quel modello perfettamente integrato di logistica e di relationship management che invece Amazon ha costruito nell'arco di questi 15 anni. In questo senso non è una mossa anti-Amazon, è una mossa per stare dietro a un mercato che sta scoppiando in mano anche ai grandi retailer. Ciò detto, tutto si inquadra nella crisi da retailer tradizionale che hai appena descritto, non solo, ma che Morgan Stanley prevede che si acuirà nei prossimi 3-4 anni, è previsto la chiusura di un quarto di tutti i punti vendita negli Stati Uniti entro il 2022, quindi puoi immaginare che siamo solo all'inizio di una grandissima rivoluzione, e questo si innesca nel cambiamento profondo del modo di vivere l'acquisto, il commercio e lo shopping, delegando completamente a processi automatici, come dire, le scelte quotidiane, quindi il semplice riacquisto, e magari concentrandosi invece sul modello di shopping esperienziale che invece richiede attenzione e ricerca. Però mi spieghi una cosa, Carlo Alberto, in quest'ambito la mossa di Amazon delle settimane scorse, ossia l'acquisto di Whole Foods e quindi di una catena fisica, che cosa rappresenta? Rappresenta proprio il tentativo di far convergere queste cose che dicevamo prima, no? Whole Foods è uno dei luoghi più intensi del grocery, cioè della spesa quotidiana, in particolare alimentare. Sull'alimentare, palesemente, la consegna a domicilio fa ancora fatica a decollare dal punto di vista proprio della comprensione dei fabbisogni dei clienti e della loro volontà di confrontarsi direttamente con la merce. Diverso è tutti i package goods, quindi tutti i prodotti confezionati che invece hanno una logistica e una delivery decisamente diversa. Cosa vuol fare Amazon? Anticipare appunto un eventuale ingresso di Walmart, che è il numero uno assoluto dal punto di vista del retail tradizionale, nel pesantemente nell'e-commerce, e occupare uno spazio di relazione. Poi Amazon ha bisogno comunque di interfacciare nuovi clienti che non si sono mai avvicinati all'e-commerce e vuole dare loro appuntamento in posti fisici. È una convergenza che avevamo previsto da tanti anni. Amazon ha addirittura aperto le librerie fisiche, che è il paradosso, no? Vista la nascita storica di Amazon come libreria online. Quindi il mercato non va verso un e-commerce in contrasto con i retail, va verso una specializzazione di momenti di acquisto. Il voice activated shopping, che è quello di cui stiamo discutendo oggi, oggetto della decisione di ieri di Google e di Walmart, è come la parte più marginale, più operativa, più noiosa, quella che viene di fatto delegata a un ordine vocale impartito dalla massaia che dice: ho finito il detersivo, ridammi quello che compro di solito. Questo è il segmento che viene sempre più automatizzato, anche perché, signori, il vero problema è che qui l'e-commerce sta facendo crollare di un ordine di grandezza il margine di intermediazione distributivo su tutte le categorie. Fai conto che quello che prima era un margine del 30-40% nel settore, per esempio, scarpe e abbigliamento, crolla al 3-4%. Quello che prima era il 10-15% sul grocery adesso arriva all'1,5-2%. Quando tu perdi un ordine di grandezza di valore aggiunto, non ce n'è per nessuno, sì, caro Simone, non ce n'è per, sì, nessuno. In questo senso la possibilità di sopravvivenza dei, chiamiamolo, dei negozi così come dei supermercati, qual è? C'è, c'è dalla... o no? Sì, c'è, ma te la sta dicendo Amazon, c'è nei modelli esperienziali, c'è, fammi dire, all'italiana, dovrei dire, nelle grandi sfide di Oscar Farinetti e della sua Italy, che vuole aprire la Disneyland del cibo a Bologna, grande scommessa, non facile, tutt'altro che scontata, però la strada è quella, o punti su motivi esperienziali per recarti fisicamente in un negozio, dove a quel punto il tema vero è l'esperienza, non in sé la transazione, oppure ottieni l'effetto contrario, ottieni quello che noi chiamiamo tecnicamente lo showrooming, cioè quel comportamento opportunistico. Tipico, penso all'adolescente che va in un negozio di scarpe, ne prova 5, poi dice grazie mille del, sì, supporto, va a casa e le ordina a Zalando, certo, o Amazon, capisci? Tant'è vero che in Australia hanno addirittura introdotto una tassa per provarsi le scarpe e i vestiti, da 2 a 25 dollari, giustamente, perché se no, capisci, lo showrooming, cioè quello di usare il posto fisico come criterio per selezionare e poi approfittare del, certo, fatto che tu la stessa selezione ce l'hai su internet al minor costo, è evidente che si crea, però ecco, non è ovviamente un tampone. Il futuro del retail fisico è un futuro esperienziale di grande ingaggio, sì, tutt'altro che semplice, perché noi abbiamo negozi espositivi, non esperienziali. Spunto interessante, ci hai dato anche l'esempio di quello che potrebbe essere, perché Italy è un grande esempio da questo punto di vista. Ti ringrazio, grazie a Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista all'Università Bocconi di Milano, co-conduttore dei Conti della Belva, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire il meteo, ci ritroviamo subito dopo e poi sarà la volta ovviamente dei mercati. Fiera del Levante, riscaldamento a legna e pellet, pftecnologie.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da CrefoZert e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it Focus Economia. Ed eccoci di nuovo 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Di nuovo una buona sera da Simone Spezia. Un ascoltatore scrive a proposito di questo nuovo modello di shopping, dice: speriamo che la massaia, che ovviamente in questo caso è una figura che prendiamo, insomma, così, una figura ideale, perché per esempio a casa spesso la spesa la faccio io e non sono un massaio, non diventi mai così ciambotta da fare spesa in questo modo becero. Ma che cosa ha di becero il fatto di ordinare un detersivo online? Abbia pazienza. Non è più becero il fatto che uno debba andare, dato che prendi sempre lo stesso fustino di detersivo, uno debba andare in negozio, caricarselo, andare con la macchina, portare indietro con la macchina, su, dai, no, non ha niente di becero questo modo di fare la spesa, è una semplificazione. Invece non riesco a capire esattamente cosa ci vuole dire Paolo quando ci scrive: da webmaster, ideatore e gestore anche di negozi online da anni, mi sembra che stiano creando e imponendo ai clienti dei servizi non richiesti col solo fine di spostare il più possibile i costi sul conto dell'utente finale. Sinceramente non mi sembra, l'impressione è in realtà che i costi si stiano riducendo, perché in realtà queste grandi aziende, la vera ricchezza che hanno non sono i margini su quel che vendono, meglio, sono anche quelli, ma sono soprattutto i dati che noi gli consegniamo. A questo proposito, a questo punto è quasi d'obbligo ricordarlo, vi ricordo che c'è una trasmissione che se ne è occupata, si chiama Codice Sorgente, una trasmissione estiva in 5 puntate firmata dal sottoscritto e da Enrico Pagliarini. Trovate i podcast, ci siamo occupati anche di questo, anche del marketing online e via dicendo. Siamo ai mercati dunque, Ceo Condina, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buonasera Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Bentornato. Grazie. Allora, giù la borsa in genere, meno 0,5% il FTSE MIB, meno 0,48% il FTSE All-Share, Parigi che cede lo 0,32%, Francoforte lo 0,45%, Londra in calo di solo lo 0,03%. Dacci innanzitutto un quadro generale di giornata. Ma diciamo un quadro generale vede sostanzialmente le borse europee negative, comunque deboli, ha pesato anche l'apertura in rosso di Wall Street che ha ceduto lo 0,2%, come dicevi tu Milano ha perso mezzo punto percentuale, Parigi lo 0,3%, Francoforte lo 0,4%, pesa anche su Milano, in particolare il rialzo dello spread BTP Bund che arriva a quota 175 punti base, un rialzo dello spread che ha penalizzato soprattutto i titoli bancari che come sappiamo comunque hanno un peso importante sull'indice principale di Milano. E questo per quanto riguarda il quadro generale. Per quanto riguarda i singoli titoli, insomma, Fiat Chrysler ne abbiamo parlato ampiamente in apertura, un più 5,75%, qua nuovi rumor che riportano il titolo sopra i 12 euro, ha guadagnato più di 2 euro nel giro di due settimane, dicevo. Sì, in un anno, facendo qualche calcolo, ha guadagnato il 110%, quindi il titolo è raddoppiato, siamo ormai ai massimi dopo lo spin-off della Ferrari, bisogna fare anche dei calcoli abbastanza complessi, si può arrivare anche a dire che il titolo è praticamente ai massimi storici, sicuramente c'è un po' di speculazione, qui adesso come noto l'ipotesi e le indiscrezioni parlano di un possibile scorporo dei marchi di lusso della componentistica, cioè di Magneti Marelli, chiaramente se un'ipotesi del genere libera valore così come ha fatto con Ferrari che adesso ormai quota quasi 100 euro, la prospettiva è sicuramente positiva e quindi il titolo è ancora andato avanti insomma. Giù dicevi un po' tutto il settore bancario, meno 2,47% BPM, giù Fineco Bank del 2,07%, UbiBanca del 2%, Unicredit dell'1,82%, Mediaset meno 1,71%. Invece per quanto riguarda Mediaset è un discorso un po' più generale che riguarda il settore dei media in Europa, settore media che oggi in Europa è stato molto penalizzato, infatti lo Stoxx europeo del settore dei media, quindi il gruppo dei principali titoli di questo settore in Europa in borsa è stato il peggiore, ha perso oltre il 2,5%, questo perché? Perché la britannica WPP ha dato dei dati del primo semestre positivi, però ha limato leggermente le previsioni per la crescita a fine anno delle vendite, quindi un piccolo campanello d'allarme di cui hanno risentito tutti i titoli di media in Europa, tra cui Mediaset che ha chiuso appunto il ribasso dell'1,7%. E questo appunto per quanto riguarda Mediaset A2A. A2A, qui c'è grande attesa per l'udienza che si terrà presso l'Alta Corte del Montenegro venerdì per lo sblocco della quota attualmente sotto sequestro che A2A detiene nell'utility di Stato montenegrina EPCG, una quota pari al 41,7%, è una quota che vale molto, che A2A vorrebbe anche cedere o comunque vendere allo stesso governo montenegrino, chiaramente finché è posta sotto sequestro la situazione è un po' diciamo un po' incerta e quindi si riflette un certo nervosismo sul titolo. E qua per quanto riguarda 2A, negative oggi tra l'altro anche, visto che molto di commercio online abbiamo parlato poco fa, Uxnet Aporté che c'è del 2,20%, Ferragamo che c'è dell'1,38%, Enel l'1,19%, Telecom Italia l'1,15%, Saipem l'1,14%, CNH allo 0,99%. Non ho capito bene una cosa, c'è una qualche spiegazione per questo rialzo dello spread negli ultimi giorni o no? Diciamo gli operatori si aspettano, ci sono un po' di fattori, per esempio il fatto che con l'autunno si torni a parlare di elezioni, chiaramente quindi di instabilità per quanto riguarda il quadro politico italiano e poi c'è anche un tema di BCE che potrebbe magari non subito ma magari nei prossimi trimestri iniziare a rimuovere qualche manovra espansiva, chiaramente spingendo a rialzo i tassi. E grazie a Ceo Condina, Radio Corriere del Sole 24 Ore, una buona serata e un buon lavoro. Passiamo al prossimo argomento, visto che siamo sui mercati, ci occupiamo del gruppo londinese specializzato nella concessione di prestiti subprime che ha perso ieri il 70% in un giorno in borsa. Ci ricordava tra l'altro un ascoltatore a inizio trasmissione che 10 anni fa esatti falliva Countrywide, la regina americana dei mutui subprime, una specie di coincidenza se vogliamo. Parliamo dunque del gruppo Provident, che è specializzato in una concessione di prestiti subprime, che ieri ha bruciato in borsa 1.700 miliardi di capitalizzazione. Siamo in linea con Nicole degli Innocenti per il Sole 24 Ore da Londra. Nicole, buonasera. Salve. Allora, che cosa è successo? È successo il crollo in borsa, che tra l'altro è il più grande mai registrato in un giorno da una società del FTSE 100, delle prime 100 società della borsa britannica. È stato dovuto a un allarme utili della società, che è stato il secondo in 2 mesi e che ha portato alle dimissioni dell'amministratore delegato, che aveva ci sono due questioni qui. Una è la società che aveva avviato, che si è un po' autoinflitta questa perdita, perché ha avviato una ristrutturazione che all'insegna della trasparenza, probabilmente per differenziarsi, per distinguersi dai concorrenti, nel nome della trasparenza cercare delle nuove tecnologie, ha cambiato completamente il modello di business con risultati disastrosi. È una società, diciamo, molto tradizionale, letteralmente offrendo prestiti a porta a porta, quindi si basava molto sul rapporto personale degli operatori con le famiglie, con le persone alle quali offriva dei prestiti, e poi invece è stata cambiata questa cosa radicalmente dal ministro delegato, che ha dato le dimissioni, introducendo invece un sistema più imprenditoriale, più meccanizzato, di gestori, esperienza cliente con iPad, con software specializzato, collegati online, e tutto doveva essere fatto appunto online, basato meno, diciamo, sul rapporto personale. Questo ha portato a un crollo del tasso di raccolta di debiti e il software ha creato problemi, e ci sono stati un crollo anche della concessione di nuovi prestiti, quindi questo ha creato il problema finanziario. Guardando invece al settore, il settore del credito al consumo in Gran Bretagna è un settore che va benissimo, diciamo. Infatti Provident Financial è stato un crollo molto rapido dopo anni di ascesa. Nel 2015 infatti è riuscita a entrare appunto nelle prime 100 società dell'indice di borsa britannico. Perché? Perché negli ultimi anni, appunto, come ricordavi, dopo la crisi, 10 anni dopo la crisi, le banche britanniche, le banche tradizionali hanno stretto sempre di più i cordoni della borsa, sono state sempre più caute nell'affidare prestiti, quindi hanno fatto controlli sempre più approfonditi prima di concedere prestiti, e quindi si è aumentato moltissimo il numero delle persone considerate inaffidabili e quindi cosiddette subprime. Sì. E quindi questo ha creato un mercato enorme per società come Provident Financial. Sì, ci siamo divertiti un po' tutti, no, a ragionare su questa idea secondo la quale il passaggio da un modello di business basato sulla concessione e anche riscossione porta a porta dei crediti con 4.500 agenti sul territorio fosse stata sostituita da, com'è l'espressione, gestori dell'esperienza del cliente muniti di tablet in numero di 2.500 abbia portato in qualche modo a una crisi del modello di business. In realtà poi, Nicole, non era stato ancora completamente implementato questo piano, no? Sì, era cominciato pochi mesi fa, ma ha avuto appunto risultati disastrosi molto, molto immediati, probabilmente perché il tipo di persone che hanno bisogno di questi prestiti, che appunto non si possono rivolgere a una banca tradizionale, forse non sono il tipo di persona collegata sempre a internet, disposta a prendere appuntamenti online e cose del genere. Grazie a Nicole degli Innocenti per il Sole 24 Ore da Londra. Buonasera e grazie per questo aggiornamento. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi andiamo a parlare di politica europea, soprattutto politica monetaria europea, oltre che di questa proposta del ministro tedesco Wolfgang Schäuble, condita poi da 1000 precisazioni, secondo la quale l'ISM, il fondo che dovrebbe servire al salvataggio degli stati, potrebbe essere utilizzato anche per iniziative, la semplifico molto, ma ne parliamo tra un attimo, pro crescita. State ascoltando un programma offerto da Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Focus Economia. Ancora a proposito del commercio online, vedo molti sms, messaggi WhatsApp degli ascoltatori che dicono: e poi che fine faranno i nostri addetti al commercio? Quante persone finiranno in mezzo alla strada? I grandi cambiamenti tecnologici portano sempre timori di questo tipo, che a volte si concretizzano in realtà. Però prendete per esempio l'agricoltura. All'inizio del secolo scorso, in Italia più o meno un 40-50% della forza lavoro era impiegata in agricoltura. Adesso siamo intorno al 2%. Eppure la disoccupazione c'è, perché non è che non c'è. Però le cose cambiano, l'innovazione tecnologica porta anche nuovi tipi di lavori. Il tema è molto ampio e anche quello l'abbiamo trattato in Codice Sorgente, e a questo sta dedicando tra l'altro un lungo speciale il Sole 24 Ore sul futuro del lavoro, curato da Luca De Biase. Trovate le varie puntate tanto sul sito quanto nell'archivio quanto nel quotidiano in edicola. Veniamo all'Europa dunque. C'è quest'idea, e partirei da qua. Vittorio Darold del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao Vittorio. Ciao a te. Effettivamente è una situazione nuova questa del piano Schäuble, ma sì, improvvisamente devo dire non è diventato Babbo Natale, cioè Schäuble non è diventato quello che ci darà soldi senza avere qualcosa in cambio. Però effettivamente c'è una svolta importante. E questa svolta dice, si dice in sostanza, l'idea sarebbe questa. Allora, le indiscrezioni sono partite dalla Bild, quindi le prendiamo sempre con beneficio di inventario, perché sappiamo che non è che sia un giornale affidabilissimo. Però dice: non solo in caso di fallimento, ma anche per migliorare le congiunture in periodi negativi e in casi di catastrofi naturali, l'ISM potrebbe essere utilizzato. Una questione, in realtà, come diciamo, l'indicazione arrivava dalla Bild, poi in realtà una conferma sostanziale che qualcosa sotto c'è è arrivata dallo stesso portavoce di Schäuble, no? Sì, esattamente, che precisando ne ha quantomeno reso autentica la realtà di questo progetto. Questo progetto nasce, secondo indiscrezioni che provengono da Bruxelles, da un compromesso tra le richieste francesi. Emmanuel Macron vuole sconfiggere i populismi e quindi chiede che ci sia anche un intervento per finanziare, per aiutare gli investimenti, cioè rilanciare le infrastrutture con dei piani comuni all'interno dell'Unione Europea. Però uno dice: beh, ma ci dovrebbe già essere la BEI, no? La Banca Europea per gli investimenti. No, Macron vuole di più, vuole cioè trasformare il fondo salva stati, quello che è stato costruito in fretta e in furia sulla crisi, per risolvere la crisi greca, e trasformarlo in un fondo monetario europeo. Questo però deve avere qualche contropartita. Quale? E qui naturalmente nei dettagli c'è sempre il problema. Schäuble chiederà qualcosa in cambio. Si parla di due ipotesi. La prima è che il Fondo Salva Stati diventi anche il controllore dei conti pubblici, cioè al posto, oggi abbiamo la Commissione Europea che controlla i conti e il Fondo Salva Stati che dà i soldi. Quindi abbiamo due figure diverse. Invece il Fondo Monetario Internazionale racchiude nella stessa entità queste due funzioni. Il Fondo Monetario fa sia da banca sia da controllore, perché manda i suoi ispettori a verificare che cosa succede dei soldi che ha prestato. Nell'Europa di oggi queste due funzioni sono divise e secondo i tedeschi la Commissione Europea è un po' troppo, come dire, sensibile alle richieste dei paesi partner, mentre vorrebbe qualcuno di più serio, più teutonico. Guarda caso, quindi il in sostanza si tratterebbe di affidare ad un organismo tecnico la decisione sul controllo sul rispetto delle regole europee, il famoso 3%, per dirla molto brutalmente, insomma, cioè i margini di trattativa che in quest'idea di Schäuble che ci stai raccontando, per come viene descritta, i margini di trattativa che abbiamo avuto fino ad ora, non solamente noi ma anche altri paesi, Germania compresa tra l'altro negli anni passati, non solamente noi ma anche la Francia, appunto, la stessa Germania, la Spagna, eccetera eccetera, questi margini di manovra si ridurrebbero drasticamente, perché in questo momento tu tratti con Juncker e con i suoi uomini e con una Commissione Europea sulla quale il Parlamento ha peraltro un controllo. Là andreste a trattare con un organismo tecnico, quindi un po' come se trattassi con la Banca Centrale Europea. Sì, esattamente, ci sarebbe Riegling, questo appunto presidente del Fondo Europeo, deve rispettare il mandato, che è quello di prestare soldi in cambio di garanzie o di riforme, di quello che appunto verrà richiesto. Quindi si comporterà come un creditore. Questo elemento sembra anche che si aggiunga un'altra questione, ahimè molto più complicata, cioè che i tedeschi vogliano porre il famoso tetto agli acquisti di bond delle banche commerciali, di modo che sia più, diciamo così, limitato l'acquisto di bond da parte delle banche nazionali. Questo è un fatto per noi molto importante, perché già in passato il nostro ministro Padoan ha detto di no. Quindi in sostanza si sta trattando, dopo tutto questo, dopo il 24 settembre per elezioni, per dare un nuovo mandato al Fondo Salva Stati, mettere un po' di soldi nel circuito europeo sugli investimenti, in cambio maggiori controlli e forse un tetto appunto all'acquisto di bond. Tutto questo naturalmente è un compromesso per ora franco-tedesco, manca ancora la voce italiana, perché su questo noi non abbiamo ancora detto nulla di ufficiale, ma le trattative sono in corso e tra breve ci sarà anche un vertice a quattro proprio a Parigi tra Germania, Francia, Spagna e Italia. È possibile che proprio in quell'occasione ci sia qualcosa di più. Sì, si vada a toccare anche questo tema inevitabilmente. Sì, cioè anche le riforme. Come dire, è difficile che emerga qualcosa di più concreto, immagino, prima delle elezioni tedesche, perché come sappiamo per i tedeschi questi sono elementi fondamentali, proprio per gli elettori tedeschi, dico, non solamente per i politici. Assolutamente, infatti la portavoce del ministro Scholz si è subito premurata di dire no, attenzione, non stiamo dando soldi alle cicale del sud, state tranquilli, nessuno darà dei soldi. In realtà nessuno spera o si aspetta qualcosa di simile. Si tratta semplicemente di rendere in qualche modo possibile il fatto di avere un ministro dell'economia, delle finanze comune e un budget europeo comune dell'eurozona. Questo è quello che chiedono i francesi per rilanciare l'Europa. Però per fare questo naturalmente deve avere maggiori controlli e tutto questo è tutta una materia su cui si sta discutendo. Tutto questo ha avuto ripercussioni sui mercati, perché lo spread tra appunto italiano si è allargato, poi si è rimesso, diciamo, ha recuperato. Tutto questo su queste voci, ecco, quindi sì. C'è una materia che si sta, un fronte nuovo che sta dando da pensare. E che bisogna essere molto attenti, perché europea. Su questi, come ricordi naturalmente, quando si fanno delle accordi europei come il bail-in, bisogna essere molto attenti sui dettagli, perché sennò dopo ce ne accorgiamo troppo tardi. Come il famoso 3%. Allora grazie dunque a Vittorio Darold del Sole 24 Ore per questo punto, e ringraziamenti anche a Gianmarco Ferronato in regia, Mauro Del Corno in assistenza e redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, libera la voglia di fare.